sé yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Faccio una piccola nota di precisazione, una cosa accaduta ieri, molti mi hanno scritto e telefonato dicendo mi avete censurato quando l'organizzatrice di feste per bambini diceva quale fosse il prezzo di queste feste. Ho risentito la registrazione, è vero, nel momento in cui lei diceva che una festa per bambini può costare anche 5.000 euro, sul 5.000 è andato uno scatto di telefonata e non si è capito bene. Era 5.000 euro per fare una festa per bambini, per rappresentare un'eccellenza, per rappresentare una diversità nella corsa al successo tra genitori, una dimostrazione del successo, alla dimostrazione dello status. Questa precisazione cade a fagiolo proprio perché oggi sembra che ci sia una mediocre ricerca per uscire dalla mediocrità. Oggi parliamo dei mediocri. Ieri ve l'avevo già accennato, i mediocri sembrano avere uno strepitoso successo, potremmo chiamarli mediocri ma sono in realtà i padroni del mondo, almeno del piccolo mondo che ci sovrasta, il mondo del lavoro, il mondo dei rapporti sociali, il mondo degli affetti, il mondo dei modelli che sembrano imporci stili di vita. A noi piace considerare gli altri mediocri e avere in sé una sorta di supponenza di essere diversi, di non essere mediocri. Noi tutti ci lamentiamo e sentiamo lamentarsi persone del fatto che ci sono sempre dei mediocri nei posti che contano, sempre dei mediocri fanno quello che potremmo fare noi molto meglio. Ora, questo è sicuramente un cammino molto scivoloso, perché chi si definisce mediocre in realtà è un grande fighetto, è una sorta di doppio salto mortale, una dimostrazione di narcisismo, dire io sono un mediocre, nessuno si sente mediocre, non ci prendiamo in giro. Il puro mediocre è assolutamente incapace di definire la differenza tra eccellenza e non eccellenza, una sorta di monocromia dell'intelletto, non vede nulla che è naturalmente ciò a cui si deve uniformare per essere tranquillo, per essere rassicurato e per avere lo strepitoso successo che ha. Dunque, mi dispiace pure infierire contro il mediocre, perché potrei infierire contro me stesso, potrei infierire contro persone a me care, contro persone che sono preposte al controllo delle mie attività. Quindi, per non far sentire degli svantaggiati i cari amici mediocri, vorrei chiamarli diversamente eccellenti. Mi sembra un termine meraviglioso. Oggi parliamo dei diversamente eccellenti, ma che sono talmente mediocri che non capirebbero nemmeno la nostra delicatezza. Mi ha fatto riflettere ieri un'amica su Facebook dicendomi: guarda che oggi uno dei termini più usati è straordinario. Straordinario in realtà vorrebbe dire extraordinario, qualcosa che trascende dall'ordinarietà, qualcosa di superlativo, ma in realtà noi diciamo straordinario, che invece ribadisce l'ordinarietà, quasi che essere ordinari significhi avere una sorta di superpotere. Un'astronave aliena atterra su Norto lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo 100 volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono 100 volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di Normal Man! Normal Man è il supereroe dell'ordinarietà. È l'uomo subnormale, sotto la norma, per intelletto, intelligenza, percezione, sensibilità, che per una sorta di apporto alieno diventa normale, diventa 100 volte più del suo potenziale, quindi diventa un uomo normale e compie delle azioni straordinarie proprio perché è normale. 800240024, dico anche all'ascoltatore che su Facebook mi continua a tartassare mentre sono in diretta dicendomi la trasmissione prima era più ficcante, ora sembri Sandro Paternostro, quindi perfettamente incarno la mediocrità, ma proprio per capire quali sono i campi in cui il mediocre sembra dettare quella che è la linea di demarcazione del progresso dell'umanità, abbiamo subito al telefono una vibrante e sensuale testimonianza. Antonella, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Ecco, qual è la sua esperienza con la mediocrità? Il suo contatto con la mediocrità, la sua, ahimè, inadeguatezza ad essere mediocre? Beh, io qualche tempo fa, dopo, diciamo, un periodo di apprendistato, ovviamente decisi di migliorare la mia posizione lavorativa ed ebbi un colloquio di lavoro in uno studio professionale molto noto. Io sono attualmente commercialista, che peraltro era gestito da un docente della mia università che avevo avuto modo di conoscere non solo all'università ma anche a varie manifestazioni, cene del Rotary, eccetera. Quindi un personaggio. Sempre... Dica. Un personaggio. Sì, un personaggio. E lui aveva sempre avuto modo di apprezzare le mie qualità finché mi sembrò giusto approcciarlo per un colloquio di lavoro vero e proprio. Lui mi ricevette e all'esito del colloquio mi disse: senta una cosa Antonella, lei è sicuramente una persona di grandissimo valore, l'ho sempre apprezzata, abbiamo parlato di tantissime cose, argomenti diversissimi, però le devo dire che se lei venisse qui nella mia struttura metterebbe a repentaglio la struttura stessa, perché le sue qualità sono palesemente superiori a quelle degli altri miei collaboratori e quindi io temo che lo stesso equilibrio dello studio ne verrebbe meno. Quindi lei avrebbe rappresentato un traguardo troppo alto, un obiettivo inarrivabile per il resto dei collaboratori, avrebbe creato disordine, quindi l'eccellenza crea disordine. E così sembra. E quindi il lavoro lei non l'ha preso? E quindi il lavoro non l'ho preso, sono andata a lavorare altrove, ho lavorato per un'azienda, finché poi mi sono resa conto che in certi ambienti, appunto, popolati da quelle persone, non potevo lavorare e adesso il risultato è che lavoro da sola, ne sono contenta, sa. Grazie Antonella, siamo profondamente toccati dalla sua testimonianza. 800 24 00 24, quante volte nella vita, nel quotidiano, nel vostro lavoro avete fatto questo pensiero che in realtà ci rende immensi? Perché un mediocre sta al posto mio? Perché soltanto persone mediocri hanno successo? Qualcuno ha cercato di spiegarci in maniera matematica e tecnica questa eccellenza del mediocre. Ho al telefono Antonello Caporale. Antonello, buongiorno. Buongiorno a voi, a te. Antonello è un giornalista di Repubblica, un mio collega, autore di un libro che è uscito proprio ieri, ce l'ho qui ancora caldo tra le mani, Mediocri, i potenti dell'Italia immobile, Baldini e Castoldi, editore. Antonello fa un'analisi degli ultimi fatti italiani, politici, sociali, di costume, di malcostume, insomma fa quello che fa sempre un giornalista, però in questo libro aggiunge una chiave ulteriore alla sua lettura. Ha trovato la formula matematica della mediocrità, vero Antonello? Io sono partito con questa tesi, che il potere della mediocrità misuri esattamente la distanza che separa il talento dal successo. Quanto più pervasivo... Sei in un canile, Antonello, sento cani abbaiare. Sono in un parco e per la verità il cane è stato tranquillissimo fino adesso, invece adesso ha ritenuto di dover... Vuole impugnare il suo non essere mediocre. Contro un pari grado. Allora dimmi... E il potere, appunto, se misura esattamente la distanza che separa il talento dal successo, è la tesi fondante del mio libro, ma anche lo spunto narrativo. Quando io ho visto in questo un intrigo, dico, ma se è così, se è matematico che quanto più mediocri posseggono la struttura portata dello Stato, dalla politica all'economia, allo sport, al costume, tu hai fatto un'analisi bellissima di quanto lo star system dei programmi popolari televisivi in realtà poi sono quelli che impongono addirittura le magliette che si comprano nei mercatini, il piccolo vestirsi, è tutto legato a una chiave di proclamazione gloriosa della mediocrità. Ferrero, dico bene, ne ha detto delle prezzemoline a proposito delle griff per poveri, sì. È come creare, come Lehman Brothers crea i bond, i titoli tossici. Io ti mando dalla De Filippi, ti faccio vedere, ti rifaccio rivedere e poi ti faccio vestire con una maglietta e chiamiamola partito preso e metto per iscritto partito preso. Questa maglietta tu la vedi, la rivedi, la rivedi. Io poi, nelle pubblicità dei giornali che so che tu leggi, che la signora legge, scrivo partito preso, la maglietta partito preso la indossa Francesca ogni pomeriggio alle 5.40. Quindi io da un nulla creo un Bond, un titolo, perché la Bala Vallettina la creo in televisione. E questa è la strategia di marketing comunque. Questa è la strategia di marketing che misura la venilizzazione della vita nostra. Ecco, mi spieghi meglio come chi ti ha formulato? La formula è abbastanza complicata per chi come me non si intende solamente di matematica. Sì, la trovo complicata, come dire, scriverla in matematica. Perciò ho chiesto a due ragazzi che sono economisti, allievi della Normale, adesso studiano e lavorano a Barcellona, a Pompeo Fabra, all'università, di mettere per iscritto, di risolvere in un'equivalenza la mia idea, e che cioè se ci sono troppi mediocri, tantissimi, perché non c'è un grado di linearità, non c'è una proporzione diretta, 3 mediocri, 3 talentuosi. Se ci sono 3 mediocri, 300 talentuosi se ne vanno via, e quindi c'è un rapporto non lineare. Tanti mediocri al potere, e per potere qui identifichiamo tutto, dal potere politico qualunque cosa, cioè al potere televisivo, troppi talenti lontani. Vediamo se io riesco a spiegarla proprio da ignorante in matematica. Cioè, una persona di talento ha possibilità di avere successo in maniera inversamente proporzionale, quindi poca possibilità di avere successo, in quanto invece questo successo possono averlo un numero sterminato di mediocri. Certamente. Abbiamo capito. È così. E i mediocri, tra l'altro dobbiamo dire una cosa, il mediocre non è fesso, l'hai detto tu prima, il mediocre non è fesso, sa che però sbaglia solo chi fa, il mediocre sa stare in fila e sa non fare. Per mediocre non diciamo, a scuola ricordiamo il mediocre che galleggia tra il sufficiente e lo scarso, ma il mediocre non è un da buttar via, e la vita non è fatta solo di cervelloni, e i talentuosi non sono solo i cervelloni. Però Antonella, sì, voglio dirti che chi deve gestire comunque materiale umano, risorse umane, come si dice, sa benissimo, a me è capitato nella vita, che in realtà ti servono i mediocri, sono indispensabili, le punte avanzate sono meravigliose, ti aprono dei lampi sulla realtà, ma quando hai delle grosse masse di persone da gestire, quindi delle responsabilità, ti servono tanti mediocri che eseguano, che facciano esattamente e siano prevedibili in ogni loro azione. Sì, e l'ascoltatrice di prima dimostra esattissimamente il mio assunto: il talento ha bisogno della mobilità, è veloce, non sta in fila. E il signore che le disse: guardi, lei ha un livello di preparazione superiore a quello che mi aspetta, quindi fa casino, risolve con un disordine il mio ordine gerarchico e anche l'ordine di staff organizzativo, è un dato. O anche un concorrente di Foggia, un concorso pubblico, gli dissero: lei è troppo bravo per essere tra di noi. E persino in un concorso all'università, credo a Firenze, scrissi un articolo per Repubblica, due intercettati professori, uno diceva all'altro: questo è troppo bravo, bocciamolo. Sentiamo un attimo, è Vincenzo, un ascoltatore che ci chiama. Vincenzo, buongiorno, ha avuto anche lei un'esperienza di stop delle sue velleità professionali in quanto non mediocre, mi sembra di aver capito. Sì, pronto? Sì, Vincenzo, eccomi. Ecco, sì, io ho sentito la signora precedentemente, mi è venuto subito in mente il mio episodio che riguardava appunto, io sono un attimo. Pronto? Sì, sì. Dicevo che da fabbricante mi sono proposto per un'azienda a fare il rappresentante dello stesso prodotto per cui io lavoravo, e mi è stato detto che io ero troppo competente e avrei venduto praticamente il 50% del prodotto che loro fabbricavano, perché ero a conoscenza magari della poca qualità di un certo prodotto, per cui mi è stato detto che io non sarei stato in grado di vendere di tutto, e soltanto la parte più qualificante, ecco. Sì, nel libro di Caporale c'è, ricordami te Antonello esattamente l'episodio, una storia bellissima di un dirigente bravo e zelante che gli viene imposto l'assunzione di un perfetto cretino. E gli viene detto dal suo capo, dice: tu sei un venditore di tappeti, abbiamo in magazzino questo tappeto scarto e tu devi venderlo, vero Antonello? Sì, questo è contenuto in una lettera di un eccellente che è poi è stato mandato in esilio. Però volevo dire una cosa, sentendo l'ultimo nostro ascoltatore: la mediocrità ha un costo, attenzione, non ne facciamo poi adesso una... la mediocrità costa e molto. Perché? che il costo della mediocrità, il costo della legislazione d'urgenza, il costo di questo Parlamento. Io ti faccio una domanda, se mi permetti. Troverai nel libro, se avrei voglia di sfogliarlo ancora, una domanda che un signore ha fatto a una signora e ha detto: scusi, lei quali libri legge? La signora ha detto: no, io non leggo libri, studio ancora. Secondo te, Gianluca, questa signora che lavoro fa? Ma secondo me è un aspirante a un ruolo universitario, qualcosa del genere. È una deputata del Parlamento. Ah, beh, ancora, beh, le fa onore dire che studia ancora comunque. Perfetto. Lei non legge i libri perché studia ancora, quindi non ritiene che il romanzo, la narrativa, la saggistica... Ah, non considera studiare e leggere libri? No, considera un tema confliggente. Beh, io sai, ne ho parlato più volte rispetto alla nostra sacrosanta costituente. Mi sembra che la percentuale di parlamentari con titoli di studio accertati vada via scemando. Questo è un fatto generalizzato. Però sai, la questione che coglie, che colpisce più le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, è nel piccolo quotidiano. Ognuno ha la percezione di avere comunque dei mediocri attorno che sovrastano ogni possibilità di uscire dalla regola, di mostrare dell'eccellenza, della diversità, della fantasia. Avevo al telefono adesso, vedo che si è collegata, una... quelle che vengono rappresentate un po' come le mosche bianche, le persone che non si piegano al fatto di voler essere mediocri o di voler accettare la legge del mediocre, quindi spazia rispetto ai nostri angusti spazi geografici. Costanza Hermanin, buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei è una grossa studiosa che il suo tempo lo passa sia a studiare che a leggere libri, immagino. Non mi definirei una grossa studiosa, senz'altro una persona mobile, infatti ci sentiamo dall'aeroporto di Charleroi, che è uno dei posti, credo, dove ho passato più parte del mio tempo negli ultimi anni. Lei è ricercatrice presso l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, ha lavorato presso il Ministero degli Affari Esteri francese, Commissione Europea, è stata consulente per la Banca Mondiale. Insomma, è una persona che ha deciso che se il mondo vuole mediocri, lei va a cercarsi delle fette di mondo dove conta non essere mediocri. Beh, sì, in parte. Non esageriamo. Questi sono stati i posti dove è stato più facile inserirsi dopo la laurea. Dopo una laurea senza esperienze professionali, ma con un buon voto, e dove, diciamo, conta il curriculum scolastico più che le connessioni altre. Melog 2.0 800240024, stiamo parlando del trionfo della mediocrità, ma ci colleghiamo immediatamente con Costanza Hermanin, con cui mi sono interrotto all'inizio dalla fine della prima parte, perché è in aereo e sta per decollare da Charleroi, o sbaglio? È già decollata? No, non sono già decollata, ma fra poco le hostess di Ryanair penso che mi impediranno di continuare la conversazione. Allora, mi sembra aver capito, Costanza, che lei fa parte di una rete di eccellenti, di non mediocri, che giornalisti, economisti, imprenditori, che si vedono in varie parti del mondo, perché sono cose, siete fuggiti dal nostro paese perché trionfano soltanto i mediocri, o c'è una circostanza particolare? No, posso intervenire subito. La rete si chiama ARENA, Rete per l'Eccellenza Nazionale, però attenzione, non è la rete degli eccellenti, è la rete per l'eccellenza, quindi è una rete di persone che probabilmente si ritengono non mediocri, ma comunque di persone che lavorano, che hanno avuto la possibilità di fare quello che vogliono, magari non in Italia, ma alcuni sono anche in Italia, e che si riuniscono per portare l'eccellenza in Italia, quindi se vuole per combattere la mediocrità. È un antidoto alla mediocrità. Un antidoto, sì. Ecco, ma all'estero funziona diversamente, perché noi ci affliggiamo sempre con dei complessi di inferiorità terrificanti. Soltanto in Italia trionfa il mediocre come elemento distintivo della società, oppure anche all'estero in fondo c'è questo problema che sto vedendo dai messaggi che mi stanno arrivando. Un'infinità di persone che fanno colloqui di lavoro dicono: lei ha un profilo troppo alto rispetto alle nostre esigenze. Guardi, secondo me è in parte così, voglio dire, il problema della mediocrità è un qualcosa che si conosce dai tempi di Platone. Il problema è questo, che diciamo all'estero, magari in paesi come il Belgio e la Francia, che sono quelli che io conosco meglio, c'è la possibilità per una persona che ha appena terminato gli studi, io avevo 25 anni quando ho fatto la prima esperienza lavorativa, di fare un'esperienza lavorativa in un ambiente molto interessante, remunerata, cosa che in Italia è assolutamente impossibile. E quindi, diciamo, da questo punto di vista c'è un accesso al mondo del lavoro, al mondo delle istituzioni politiche, al mondo delle imprese che lavorano ad alto livello, più semplice di quanto non ci sia nel nostro paese. E anche se vuole, credo, un accesso alla carriera accademica leggermente più aperto, anche se questo, diciamo, è un problema forse... Sì, ho un'infinità di aspiranti docenti universitari che da anni si consumano sui banchi dell'università con piccoli contratti, con molto più volontariato che attività retribuita, che mi stanno già scrivendo su Facebook. La saluto, buon decollo, buon viaggio, buona fortuna, allegria. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Lei la sento alla voce di messa che è sovrastato e schiacciato dalla testimonianza della signora che parte veloce in aereo. Ma io per la verità mi espongo alla sua motosega e volevo dire che è difficile poi dare testimonianze personali di queste cose qui, perché il peso della soggettività, della valutazione tendenzialmente non oggettiva, schiaccia questi discorsi qua, li rende veramente poco affidabili. Due parole solo per dire che questo tema che lei tratta è ben trattato in sociologia da 100 anni. Max Weber teorizzò questo punto qua. Nelle organizzazioni complesse gerarchiche il superiore non fa mai passare il brillante inferiore perché ne ha paura. Questa è, direi, la sola cosa che si possa dire. È stato accontentato, era una provocazione palese, aveva un intervento tipico da motosegaturo e quindi è stato accontentato. Dobbiamo a questo punto fare una svolta. Io vi leggo qualche messaggio di quelli che mi stanno arrivando su Facebook, dove mai un argomento ebbe tanta risonanza. Ne sono già arrivati una cinquantina in pochi minuti. Allora Armando dice: il vero mediocre è chi non ha sogni, non fa progetti, chi si accontenta, non sente il bisogno di migliorare e di mettersi in gioco. Questa è mediocrità. Poi viene citato il diario minimo, una fenomenologia di Mike Buongiorno, che trovo un po' datato, però un po' datato secondo i tempi, in cui c'era Mike che illudeva chiunque di essere in grado di fare quello che fa lui, ma meglio di lui. Poi Francesca dice: scusate, ma questa cosa è troppo bravo per noi. Di solito si dice a chi è brillante, chi ha un carattere e non sa stare dentro le righe. Poi andiamo ancora avanti. Anch'io mi sento dire, dice Riccardo, di essere di capacità di un calibro troppo elevato per l'ambiente dove ero e dove sono. Sono stato sempre dirompente nei posti dove sono andato a lavorare. Infine Francesco dice: che presunzione definire il mediocre, per certi versi siamo tutti mediocri. Vogliamo davvero pensare di essere straordinari in tutto? Ci sarà qualcosa in cui andiamo benissimo, qualcosa in cui siamo standard o sotto? Dunque siamo tutti mediocri e allo stesso tempo eccellenti. A questo punto faccio intervenire il mio psichiatra di riserva che conobbi a un aeroporto e da allora me lo porto dietro come sussidio alle mie riflessioni. Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca. Senti Giuseppe, mi servivi te questa mattina molto. Tu sei veramente una persona, non è che millanto, sei direttore di un dipartimento in neuroscienza nell'azienda ospedaliera di Terni, specialista in neurologia e psichiatria, sennò sembra che io porto gli amici così tanto per farli parlare. La cosa che mi interessa sapere da te, visto che hai sensibilità per farlo, perché noi tutti ci sentiamo così distanti dai mediocri e tutti giustifichiamo alcuni nostri insuccessi col fatto che il mondo vuole soltanto mediocri e non riconosce il nostro genio? La spiegazione più elementare è che noi elaboriamo la nostra vita narcisistica cercando di portarla in un contesto che ci faccia soffrire di meno, per cui è molto più salutare e ci conserva meglio, ci tutela meglio dire che sono brutti e cattivi gli altri piuttosto che metterci in discussione rispetto alle nostre effettive qualità, capacità, professionalità e anche, bisogna dire, alla capacità di metterle in gioco, metterle in campo, farle valorizzare e scambiarle sul mercato del lavoro. Questo è vero. Ci sono altri aspetti di cui, se vuoi, poi possiamo parlare. Mi suggerisce in questo momento Fabrizio Intonti che dire lei è troppo bravo è come dire una donna: guarda, non ti merito, non sono alla tua altezza, quando la si vuole sbolognare. Assomiglia a qualcosa del genere? Assolutamente. Assolutamente, assolutamente. È una tecnica che trova dei punti di contatto assolutamente precisi e con delle sovrapposizioni puntuali, sono d'accordo. Vi vorrei far ascoltare un attimo una dichiarazione, una sorta di confessione, un coming out di un mediocre. L'abbiamo colto in rete. In rete esiste un fenomeno di esaltazione delle velleità di tanti mediocri che per molti aspetti anche la possibilità di poter pubblicare romanzi, poesie, libri, valutazioni politiche, letture, analisi profonde della realtà, tanto nessuno ti dirà nulla, chiunque può farlo, non c'è un editore che deve pagarti e impegnarsi in maniera concreta su di te. Beh, un blogger un giorno scrive questa meravigliosa confessione di mediocrità o meravigliosa dichiarazione di narcisismo. Mi sono sempre vantato di non aver mai invidiato nessuno. Beh, non è vero. Volevo diventare scrittore, ma ora ho solo il ricordo amaro di tutte quelle risposte che non ho mai avuto da ben 26, dico, 26 case editrici. Nemmeno uno straccio di riga. Niente. Spiegazione. Non so scrivere e non ho un grande talento. Sì, alla fine ho capito sulla mia pelle che ritenersi incompresi è il modo più romantico per perseverare in un'idea sbagliata di sé. Io invece ora ammetto di non essere un genio. Sono solo un mediocre, come tanti altri. Anche se quando me lo hanno fatto capire, mi ha fatto male. Penso che alla fine non sia così male essere mediocri. Nessuna ansia, nessuna aspettativa. La libertà di fallire e l'impossibilità di deludere te stesso. Il mediocre sa che non potrà mai fallire nella mediocrità perché è un esercizio che non ammette il fallimento, perché è l'allineamento totale con quello che è lo spirito del tempo, che è quello che è ciò che il mondo in quel momento si aspetta che si attui e che esiste. Quindi il nostro blogger mediocre fa questa sua dichiarazione in rete dove ammette la sua mediocrità, ma guardate che l'ammissione della mediocrità gli procura probabilmente una gloria che mai sarebbe sognato, perché viene trasmesso per radio. A voi invece la mediocrità spaventa, ne sono sicuro. Tutti avete il terrore di ammetterlo, di bisbigliarlo. Tutti avete quella forza dentro che spinge la vostra psiche a differenziarvi, a cercare la superiorità sugli amici, sui colleghi, sui fratelli o i genitori, sugli sconosciuti persino. Quanti di voi si sono detti in mille situazioni: io la faccio meglio quella cosa, oppure quello non vale niente, non capisco perché sta dove sta. E invece dovremmo essere meno spaventati dai nostri limiti. Io credo che se li avessi visti prima avrei vissuto molto meglio, più felice, più sereno, ma soprattutto più leggero. E penso che ognuno di noi abbia un sentiero segreto che nasconde cose preziose. Sono quelle cose che contano e che ci regalano, per noi mediocri, un istante di luce, un estratto di geniale unicità. Chissà perché Paolo Corleoni mette la musica di Giovanni Allevi sotto il mediocre. Non c'ha nulla a che fare, quella è una scelta di qualità e distinzione. Invece il mediocre deve essere sonorizzato da Allevi. Monica, buongiorno, lei è una mediocre felice? Esatto, io sono una mediocre felice e volevo un po' difendere questa categoria dei mediocri, nel senso che io credo che il problema... Ma lei in cosa è mediocre? Mediocre intellettualmente, fisicamente, professionalmente? Ma sì, più o meno in tutto, ma c'è una scelta della mediocrità, una consapevolezza, voglio dire, quando l'individuo si rende conto che non è eccellente, può eccellere nella sua mediocrità, cioè dire: non sarò mai una cima, posso nel mio piccolo godere comunque delle cose che ho, delle cose che faccio. Lei è una professionista quindi della mediocrità? Professionista della mediocrità, ecco, io credo che il problema dei mediocri sia quello di sentirsi inadeguati, quando invece bastano poche eccellenze e dei mediocri consapevoli che si fidano. Quindi lei è per l'autocoscienza del mediocre? Io sono per l'autocoscienza del mediocre. Perché non fa un partito? Avrebbe un grande successo. Ma ce ne sono già tanti. Melog 2.0. Roma, 10 luglio, ore 9:48. Pier Maria Carletti, alias Normal Man, è a passeggio per la città. Nel frattempo una sventurata signorina è alle prese con un difficile parcheggio. Fortunatamente per la signorina, Pier Maria Carletti, alias Normal Man, passa proprio di lì. Salve. Salve. Strettino per parcheggiare qua, eh? Infatti. E che devi fare? Mi puoi aiutare che magari mi guarda qui dietro che non riesco a capire con lo specchietto? Non posso aiutare questa gentile donzella. Metterei troppo a rischio il segreto della mia doppia identità. Questo è un lavoro per Normal Man. No, mi spiace. Aiutare una signora a parcheggiare è un'impresa impossibile per il nostro eroe, quindi deve intervenire Normal Man. Per compiere un'azione normale ci vuole il superlativo eroe della normalità. Mentre ascoltavo le informazioni dal traffico, guardavo la pagina Cultura di Libero di oggi, dove c'è la recensione a un libro che è stato pubblicato da Stampa Alternativa, che sono 6 lezioni di Luciano Bianciardi, uno scrittore grossetano, che uscirono nel 67 sul settimanale ABC, mitologico settimanale in bianco e nero con le donnine nude che tenevano i barbieri e quando entravamo noi bambini lo nascondevano, che racconta in 6 lezioni come si diventa intellettuali. Guardate, era del 67, l'intellettualoide perfetto, ignorante, senza talento, bisogna leggere i risvolti di copertina dei libri, non leggere i libri, non frequentare corsi regolari, non studiare, munirsi di una pipa, imparare a fumarla e magari serve quando uno deve rispondere a una domanda imbarazzante, può prendere tempo e dare qualche battuta. Insomma, come si diventa intellettuali di facciata senza avere nessun talento, senza aver studiato, senza aver letto libri. Era il 67, quindi diciamo che è un male antico, un male che affonda le sue radici molto lontano. Ricordo che stiamo parlando di mediocri, di mediocrità, di confessioni di mediocri confessi, in realtà di presunzione di eccellenze probabilmente non incarnate. Lo facciamo con vari amici. Abbiamo Giuseppe Neri, il nostro psichiatra d'aeroporto, che doveva dire ancora qualcosa. No, volevo soltanto riflettere sul fatto che l'altra faccia della mediocrità può essere considerata veramente l'intelligenza, quella ascoltatrice o persona comunque con cui parlavi che partiva dall'aeroporto, secondo me ha centrato una cosa, cioè l'intelligenza è soltanto capacità di adattarsi a un contesto, certi sistemi non chiedono che questo, cioè la capacità di adattarsi, di acquisire degli schemi e di seguirli. Se l'intelligenza, come dicono alcuni, io condivido questa impressione, è qualcosa di creativo, che deve dare sintesi, deve costruire il nuovo, allora questo diventa pericolosissimo, perché costruire il nuovo significa individuare degli elementi del presente che vanno cambiati, e questo a molti poteri fa una paura terribile. È chiaro, occorre naturalmente dare delle chiavi di ristrutturazione e di riprogettazione dell'esistente, questo naturalmente taglia molti punti di potere e posti acquisiti, però così la società rimane ferma, statica, quindi non sono le intelligenze e le difformità che formano la società. Questa domanda però vorrei farla a un altro amico, un filosofo, Stefano Morigi, stai ascoltando? Sì, ciao Gianluca. Stefano è un filosofo della scienza, vero, professore con tanti allievi e uno che legge i libri. Stefano, noi stiamo attribuendo al nostro periodo storico, alla nostra contemporaneità, questa classe del mediocre imperante. Però mi sembra che nella letteratura, nella storia del pensiero, non sia proprio una novità. Tu ieri mi citavi l'uomo senza qualità di Musil, che poi non è senza qualità, in realtà è proprio l'uomo medio, l'uomo mediocre. Mi fai qualche esempio nella storia del pensiero? Ma guarda, l'osservazione del professore che mi precedeva è pertinente. La mediocrità è vero che è l'altra faccia dell'intelligenza, e l'intelligenza è l'altra faccia della mediocrità. Ulrich, che è il protagonista dell'Uomo senza qualità, in realtà è colui che è consapevole di non avere qualità proprie, ereditate, date una volta per tutte, e quindi se le deve inventare, se le deve creare con la propria intelligenza, con la propria capacità di costruire rapporti, però nella consapevolezza di un mondo che ormai non è più quello dei suoi antenati, fissato da legami consanguinei, da casati, ma in un mondo che è incline a repentini mutamenti, a cambiamenti sempre più prevedibili. E questo porta a una riflessione, che la proprietà, la qualità, quella che dovrebbe sottrarci dalla mediocrità così comunemente intesa, si dà nella relazione. E la consapevolezza di Ulrich è quella che le relazioni sono contingenti, che vanno create, sono effimere, possono slegarsi. Bauman, il famoso sociologo, rileggendo questo capolavoro della letteratura, dice che Ulrich è il vero protagonista e anticipatore della società liquida, e quindi di relazioni che definiscono qualità, che sono ovviamente contingenti non possono che esserlo in un mondo così soggetto. Senti, scusa Stefano, se oggi Musil resuscitasse, visto nemmeno riuscito a finirlo poi questo librone, che tu sei fra i tre personaggi italiani che l'hanno letto tutto, ecco, dove lo collocherebbe? Cosa sarebbe? Un produttore televisivo, un personaggio a televisione? Sarebbe l'uomo medio, sarebbe l'uomo dei media? L'uomo medio sarebbe l'uomo dei media. Cioè quello che ormai è in grado e consapevole di che le relazioni quotidiane si ridefiniscono anche attraverso le tecnologie della comunicazione. E chi rifiuta quell'intelligenza, chi rifiuta questa riflessione, rifiuta quell'intelligenza che è l'altra faccia della mediocrità. Non ha senso rigettare le tecnologie come nuove modalità di comunicazione, perché altrimenti si rimane mediocri al di fuori di questo mondo dentro il quale possiamo essere mediocri e intelligenti. Quindi bisogna buttarsi dentro il grande ingranaggio che ci atterrisce, ci esalta e ci suscita anche pensieri a volte inconfessabili, perché lì è la chiave dell'uscita alla mediocrità. Grazie Stefano, abbiamo Giovanni. Giovanni. Sì, Gianluca. Voglio chiudere con un mediocre confesso, visto che oggi è stata la vostra gloria. Ogni mattina, sei forte. Attento alla motosega, però non vorrei finire con l'omicidio di un mediocre. No, ascoltami, io sono un poeta per passione. E poeta. Occupo uno spazio web e confermo la mia mediocrità. Ma tu occupi uno spazio web perché in quanto mediocre non trovi un editore. Editore di poesia è molto infatti, difficile. Infatti. Nessun poeta pubblica. Comunque, nella mia passione di scrivere poesia, mi porta a scrivere, diciamo, quello che è la vita e tutto quanto che ne. Scusa, ma come fa un poeta a sentirsi mediocre? Sono non due termini. Come fa un poeta a sentirsi mediocre? È impossibile. Se ti definisci poeta non puoi definirti mediocre. Se ti definisci mediocre non sarai mai poeta. No, ascolta Gianluca, io me ne sono accorto da un'osservazione di un commento dove mi diceva lei occupa uno spazio di lettura e non si accorge della sua mediocrità. Ho fatto una riflessione su questo e da questo poi mi sono rivisto un po' tutti i miei testi. Naturalmente mi sono fatto anche un esame mia, diciamo, di valutazione su quello che. Però guardi, posso dire, chi ha scritto questo ha veramente ragione. Lei è condannato, perché lei, se si fosse sentito per un attimo poeta, doveva sentirsi un poeta incompreso, doveva capire che il mondo non comprendeva la sua poesia. Se lei si sente mediocre, è giustamente, sanamente, felicemente, fortunatamente mediocre, e quindi si rassegni o si allegro. A domani. Email melog@radio24.it. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.